Poi ci sono lavoratori del terziario, dell'edilizia ed alcuni disoccupati. Il 1 agosto una delegazione delle famiglie occupanti si presenta a Palazzo Vecchio, in comune, e chiede di parlare con il sindaco e con l'assessore all'edilizia, ma non viene ricevuta. Nel primo volantino pubblicato dagli occupanti viene scritto: «La casa è un diritto di tutti i lavoratori. Sostenete la lotta delle case di via Santa Maria a Centoia. Compagni, lavoratori, cittadini, siamo le famiglie che hanno occupato i 96 alloggi di via Santa Maria Maggiore e chiediamo la solidarietà di tutti i lavoratori e i cittadini alla nostra lotta per il diritto ad una casa decorosa e a prezzo accessibile al salario operaio. Lo sfruttamento in fabbrica si proietta sulla società, dove il padrone riprende il 50-60% del reddito operaio per l'affitto». Il 13 agosto le 13 famiglie che in quel momento occupano la casa del lotto 81 a San Bartolo a Centoia organizzano una manifestazione in centro con cartelli, striscioni e megafono. Una delegazione tenta ancora una volta di farsi ricevere dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici. Poi la manifestazione arriva alla sede dello IACP. I funzionari dello IACP affermano che non sono autorizzati a requisire case per sfrattati. Viene intimato di abbandonare gli appartamenti occupati in modo che lo IACP possa provvedere all'ultimazione degli appartamenti ed assegnarli, minacciando lo sgombero. Tra gli occupanti ci sono anche alcuni assegnatari delle case occupate. La vicepresidente dello IACP Massai li insulta e li minaccia di denuncia. Poi i dimostranti ritornano a Palazzo Vecchio per poter parlare con qualche membro della giunta, ma nessuno li riceve. Il giorno dopo i quotidiani, in cronaca cittadina, pubblicano la notizia della manifestazione. L'Unità titola: «Per la casa, manifestazione di abusivi in piazza Signoria». Nei 10 giorni a cavallo di Ferragosto si eleggono i delegati di Scala e si crea il comitato di occupazione. Si affrontano i problemi impellenti come procurarsi l'acqua, l'elettricità, si organizza un servizio d'ordine notturno, si organizza un asilo. Ascoltiamoci ora «Prendiamoci la città» del canzoniere del proletariato. Questa nostra lotta è la lotta di chi non vuole più servir, di chi ormai cosciente della forza che ha e non ha più paura del padrone, di chi vuol trasformare il mondo in cui viviamo nel mondo che vogliamo, di chi ha ormai capito che è ora di lottare, che non c'è tempo di aspettare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffia già, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Se occupa le case chi non ce le ha, unisce tutta la città. Si lotta nei quartieri per non pagare i fitti, difendere le case dagli sfratti. Si lotta e si vive in maniera comunista, non c'è posto per il fascista. La giustizia proletaria ricomincia a funzionare con il processo popolare. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Proletari in divisa si ribellano perché hanno capito che anche la caserma, come la prigione, è un'arma del padrone. E la loro lotta avanza con la nostra unità verso la libertà. Dai quartieri alle caserme, dalla fabbrica alla scuola, è tutta una lotta sola. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. La scuola dei padroni non funziona più, ma solo come base rossa. La cultura dei borghesi non ci frega più, l'abbiamo messa nella fossa. Anche nelle galere della repressione cresce l'organizzazione. Svuoteremo presto tutte le prigioni per fare posto a tutti i padroni. Dalle fabbriche in rivolta un vento soffierà, ovunque arriverà. È proprio un vento rosso che non si può fermare, e unisce chi ha deciso di lottare. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Per il comunismo, per la libertà, prendiamoci la città. Quando si tiene la manifestazione, gli alloggi occupati sono 13. Il 17 agosto diventano 35, il 24 agosto sono già 90 ed il 28 tutti i 96 appartamenti quasi ultimati sono occupati. La necessità di case a prezzi abbordabili è evidentemente enorme e se ci fossero stati appartamenti agibili sicuramente l'occupazione si sarebbe ulteriormente allargata. A Firenze, comunque, in quel momento ci sono, secondo un censimento, circa 35.000 vani sfitti di privati e già allora gli affitti erano molto alti, non abbordabili per una famiglia operaia. Nello stesso periodo c'è una pesante inflazione, la lira viene svalutata del 25% e i prezzi all'ingrosso sono aumentati del 42%. Il 29 agosto arriva l'appoggio alle rivendicazioni degli occupanti del sindacato dell'INPS, il 30 quella del Consiglio di Fabbrica della Nuova Italia e della Sansoni, il 2 settembre quella della Samer, della Colafer, dell'esecutivo del terzo Consiglio di Zona. Il 30 agosto l'Unità riporta il testo di un documento firmato da un sedicente comitato degli assegnatari del bando 81, in realtà del SUNIA, il sindacato inquilini della CGIL. Nel documento riportato dall'Unità viene scritto: si invitano gli occupanti bisognosi di case a non farsi trascinare in lotte che, partendo dal legittimo bisogno d'alloggio, invece di rivolgersi contro i responsabili della fallimentare politica edilizia, si ritorcano, in pratica, contro gli interessi di altri lavoratori ugualmente bisognosi di alloggio. Sempre il 30 agosto viene diffuso un volantino del Comitato di Occupazione delle Case di San Bartolo a Cintoia, dove possiamo leggere: compagni, lavoratori, cittadini, siamo le famiglie che hanno occupato i 96 alloggi in via Santa Maria a Cintoia e chiediamo la solidarietà di tutti i lavoratori e cittadini alla nostra lotta per il diritto ad una casa decorosa e a prezzo accessibile al salario operaio. Lo sfruttamento in fabbrica si proietta sulla società, dove il padrone riprende il 50-60% del reddito operaio per l'affitto. Il continuo aumento del costo della vita rende la situazione ormai insostenibile. Vengono poi fatti continui volantinaggi sui cancelli delle fabbriche, molti operai vanno alle case occupate e organizzano riunioni fra gli occupanti e i delegati dei consigli di fabbrica e di zona e militanti della sinistra rivoluzionaria. Nel bollettino numero 2 del Comitato di Occupazione del 31 agosto possiamo leggere: «Perché questa lotta non è solo nostra, ma di tutti i lavoratori. Abbiamo occupato perché abbiamo bisogno e diritto ad una casa degna di questo nome. Non vogliamo questa casa, ma una casa, dovunque sia, purché decente. La costruzione di queste case è ferma da 3 anni perché la ditta appaltatrice è fallita. La cosa da allora rimbalza dallo IACP al Ministero dei Lavori Pubblici, ai tribunali e i lavoratori, compresi tutti gli assegnatari, restano senza casa. Nessuno vuole occuparsene e tutto viene venduto all'asta. Noi assistiamo giorno per giorno allo smantellamento del cantiere. Materiali da costruzione, vasche da bagno, gru vengono portate via da camion di altre imprese costruttrici per altre case. I blocchi che occupiamo sono quasi finiti. Ci siamo offerti di collaborare al loro completamento e lo IACP ha detto che era impossibile. Siamo operai, lavoratori, pensionati, disoccupati, casalinghe. La Costituzione riconosce a tutti il diritto alla dignità sociale all'articolo 3, alla protezione della salute all'articolo 32 e all'unità della famiglia e all'educazione dei figli all'articolo 30. Non siamo i primi. A Torino, il 12 gennaio 1970, 90 famiglie abitanti in condizioni disastrose si spostano in 5-9 grandi case dello IACP. Ed ora ascoltiamoci Ribellarsi è giusto, dell'Assemblea Musicale Teatrale. Di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da 1000 senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto. Il 2 settembre viene organizzata dal Comitato d'Occupazione un'assemblea in Piazza dell'Isolotto, dove partecipano delegazioni delle fabbriche da tutta la città e vengono lette le adesioni alla lotta della Samer, della Colafer, dell'esecutivo del terzo consiglio di zona ed una compagna delegata della Targetti nel suo intervento si impegna a coinvolgere l'intero consiglio di fabbrica. Il giorno dopo il consiglio di fabbrica della Targetti si riunisce ed approva un ordine del giorno in appoggio alla lotta degli occupanti, da cui possiamo leggere: il consiglio di fabbrica chiede l'immediata utilizzazione di alloggi sfitti del comune di Firenze, che sono circa 3.000. Il consiglio di fabbrica valuta giusto e necessario il collegamento degli occupanti con gli assegnatari per impedire che passino forme di divisione e per chiarire agli assegnatari l'uniformità di interessi con gli occupanti. Il consiglio di fabbrica ritiene necessaria una presa di posizione del sindacato. Ma sull'unità del 5 settembre il SUNIA, il sindacato inquilini della CGIL, afferma a proposito della lotta degli occupanti: una forma di lotta non meditata e sbagliata, che produce lacerazioni e contrasti fra i lavoratori, che non aggrega le forze democratiche e non suscita solidarietà nell'opinione pubblica. Nel frattempo continuano ad arrivare adesioni all'occupazione da parte di decine di consigli di fabbrica, di consigli di zona, di consigli di quartiere, di segreterie provinciali della CGIL, di comitati di quartiere e di collettivi operai. Domenica 8 settembre arriva all'occupazione lo Stato Maggiore del Partito Comunista Fiorentino. Ci sono Ventura, Boscherini e Sbordoni. Durante la discussione con il comitato, i dirigenti del PC affermano la propria volontà ad arrivare ad una sollecita e positiva soluzione della vertenza, esprimendo altresì la propria preoccupazione anche in connessione con i gravissimi fatti avvenuti a San Basilio a Roma. A San Basilio, infatti, dopo forti scontri per lo sgombero di un'occupazione, un compagno di 19 anni, Fabrizio Ceruso, viene ucciso dalla polizia. Dopo gli scontri, gli occupanti vincono la loro lotta e ottengono l'assegnazione delle case. Il giorno successivo il PC effettivamente cambia parzialmente atteggiamento, pubblicando un articolo sull'Unità il cui titolo è: da parte delle forze politiche e degli enti locali numerose iniziative unitarie per gli occupanti di San Bartolo a Cintoia, incontro con il prefetto e riunione in provincia. Nel bollettino numero 3 del 13 settembre del Comitato di Occupazione viene scritto: la nostra non è una lotta isolata. In altre parti d'Italia, e non soltanto a Roma, è in atto un movimento di occupazione di case che vede in prima linea centinaia di lavoratori. Di fronte a un fenomeno così massiccio che denuncia una situazione intollerabile, anche le autorità sono costrette a prendere posizione. È di questi giorni la notizia che a Roma, dopo l'assassinio di Ceruso, il Comune ha promesso la sistemazione per tutte le famiglie e la Regione ha fatto una legge speciale che stanzia 1 miliardo e 300 milioni per avviare a soluzione il problema dei baraccati. Noi non vogliamo che arrivi la polizia e dopo si scoprano le nostre brave ragioni. Un volantino convoca per il 17 settembre un'assemblea all'Istituto Stenzen, che ebbe un enorme successo. Saranno infatti presenti operai e delegati di moltissime industrie fiorentine, rappresentanti dei comitati di quartiere e tutte le forze politiche della sinistra. Nel volantino di convocazione viene pubblicata la piattaforma delle rivendicazioni del Comitato di Occupazione. 1. Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di sgombero del pretore di Firenze. 2. Requisizione immediata da parte del sindaco di case dignitose da assegnare a tutte le famiglie degli occupanti e con un affitto al 10% del salario operaio. 3. A requisizione avvenuta, ultimazione dei lavori dell'intero lotto di 536 appartamenti IACP da consegnare ai legittimi assegnatari. 4. Dopo la soluzione del problema della casa per le 96 famiglie occupanti e per tutti i 536 assegnatari del bando 81, chiediamo che si sviluppi un movimento unitario di lotta per la realizzazione di un concreto programma di edilizia popolare che garantisca una casa decente ad un affitto possibile a tutti i lavoratori. Ascoltiamoci ora l'elefante degli Area. Corri fuori ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu, ombre bianche e vecchi poteri, il mondo torna senza pudore, vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è, vado avanti non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Corri fuori ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu, prendi tutto, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù, alza il pugno senza tremare, guarda il viso. Woo! Sabato 4 ottobre viene raggiunto un accordo tra il Comitato di Occupazione e i comuni di Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano e Lastrassigna, che può essere considerato una vittoria. L'accordo prevede 1. L'assegnazione di 42 appartamenti ad altrettanti nuclei familiari, di cui 36 a carico del comune di Firenze, 4 a quello di Scandicci, 2 a quello di Campi Bisenzio. 2. La concessione di un contributo finanziario da concordare in base al reddito, al canone di affitto e alla composizione del nucleo familiare a 28 nuclei familiari, di cui 23 a carico del Comune di Firenze, 4 a quello di Scandicci, 1 a quello di Campi Bisenzio. 3. Per le 26 famiglie rimanenti non è previsto un intervento dei comuni, in quanto già assegnatari del bando IACP che assicura la consegna degli alloggi. L'unità del 6 ottobre riporta i termini dell'accordo, titolando «Precisi impegni per le case IACP di San Bartolo a Cintoia». Il 19 ottobre è fissato l'incontro fra il sindaco Zoli e il comitato di occupazione nel Salone dei 200 in Palazzo Vecchio. Alla riunione sono presenti diversi occupanti e, cosa importante, molti assegnatari dell'881. Zoli dovrebbe comunicare dove ha reperito gli alloggi, ma dice che ha chiesto inutilmente a vari costruttori di affittare al comune vari alloggi sfitti e quindi non è in grado di rispettare gli accordi. Occupanti e assegnatari finalmente solidarizzano, individuando nel comune la controparte. Gli occupanti di San Bartolo a Cintoia si mobilitano. Il comitato di occupazione dichiara: preso atto che le dichiarazioni fatte da Zoli sembra siano andate in fumo, annuncia che le 96 famiglie passeranno ad una lotta attiva, disposti a tutto, ed ogni responsabilità sugli avvenimenti futuri ricadrà sugli enti locali ed in particolare sul comune di Firenze. Il 20 ottobre si snoda per le strade di Firenze un corteo di auto degli occupanti con altoparlanti che denuncia la rottura della trattativa ed arriva anche vicino al Presidente della Repubblica, Leone, che in Santa Croce sta inaugurando il Congresso internazionale di cancerologia. La sera, in un'assemblea alla Casa del Popolo dell'Isolotto, viene deciso di intensificare la lotta. Il giorno dopo gli occupanti tornano in comune, andando direttamente dal sindaco. I vigili urbani tentano di fermarli, ma senza riuscirci. Zoli si chiude nei suoi uffici. Alle 11 il corteo degli occupanti esce da Palazzo Vecchio per andare alla regione Toscana. Nel pomeriggio tornano a Palazzo Vecchio, presidiato dai vigili. Ancora una volta viene sfondato lo sbarramento. Dopo mezz'ora finalmente Zoli esce dal suo ufficio ed annuncia che sono stati requisiti 35 appartamenti. Ci sono anche gli assegnatari, ora uniti con gli occupanti. Ascoltiamoci quindi Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, del canzoniere pisano. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Sono i giornali dei ben pensanti, sono quotidiani indipendenti, stanno al di sopra di tutti i partiti, leccando il culo a Costa e Pesenti. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. È proprio serio questo giornale, ogni notizia è di fonte sicura, l'informazione è sempre imparziale, ti arriva dritta dalla questura. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. La repressione deve colpire chi chi vuol distruggere questo merdeo deve colpire sempre più forte i gruppi come il Potere Operaio, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Ma un giorno o l'altro questa cartaccia farà la fine a cui è destinata, e nelle edicole resterà solo un brutto odore di carta bruciata. Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone, Telegrafo Nazione, la stampa del padrone. Il 22 ottobre ancora un corteo, aperto dallo striscione del comitato di occupazione, invade Palazzo Vecchio e costringe l'assessore Chiaroni a garantire i sussidi concordati con le famiglie, che andranno dal 50 al 65% dell'affitto per un importo non superiore a 35.000 lire mensili. Il corteo esce da Palazzo Vecchio e si dirige verso la sede dello IACP di via Firenzuola. Raffuzzi, presidente dell'OIACP, tergiversa e dice che la commissione assegnatari non può riunirsi subito. Occupanti assegnatari non se ne vanno e pranzano insieme al presidente. Alle 18 Raffuzzi finalmente firma una dichiarazione scritta che soddisfa le richieste. Il 23, fin dalle 8.30, riparte la mobilitazione, che questa volta è diretta al comune di Scandicci. La giunta di sinistra si decide a procedere con le requisizioni e si impegna a dare un sussidio affitto proporzionato al reddito a 9 famiglie entro le 12.30 del giorno dopo. Poi i manifestanti vanno a Campi Bisenzio ed anche qui il sindaco si impegna a requisire 3 appartamenti e concorda un affitto di 5.000 lire a Vano. La Strassigna si impegna a trovare una casa decente entro 15 giorni ad una famiglia occupante. A Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino è già stata trovata una soluzione soddisfacente per 2 famiglie. Su 96 famiglie occupanti, 85 hanno avuto una sistemazione adeguata. Rimane il fatto che su 1.200 appartamenti che lo IACP avrebbe dovuto consegnare nel 1974, 600 rimanevano al momento non terminati per mancanza di fondi, dicono. Per chi volesse approfondire, ci sono i volantini e i documenti scaricabili dal sito archivioautonomia.it. Inoltre c'è un libro che racconta le vicende di cui abbiamo parlato. Di Mattei, Morini e Simoni, le lotte per la casa a Firenze, cronaca, storia e documenti di una lotta esemplare. Anche questo scaricabile da archivioautonomia.it. Si conclude qui questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!